Letture di Radio 24. Per contribuire a risolvere il problema del debito pubblico che nei giorni scorsi ha raggiunto il traguardo dei 2.260 miliardi di euro, la Camera ha approvato una mozione per sospendere il conio e successivamente la circolazione delle monetine da 1 e 2 centesimi, il cui costo di produzione è superiore al loro valore nominale, con il rischio però che, come era già successo con il passaggio all'euro, i prezzi tenderanno ad essere arrotondati verso l'alto, commenta Bruno Gambarotta sulla Stampa. La stragrande maggioranza degli italiani è d'accordo. Quelle monetine nel portamonete sono solo un fastidio. Questo è il motivo principale degli arrotondamenti che permettono ai commercianti di fare bella figura con i clienti, scrive Gambarotta, che poi continua. Un litro di latte intero parzialmente scremato della centrale del latte di Torino costa 1,71 e quello di alta qualità 1,76, mentre il mezzo litro costa 0,93. La vedete la lattaia che si ostina a dare di resto rispettivamente 9, 4 e 7 centesimi? Ma vogliamo scommettere che il giorno dopo l'abolizione delle monetine, i prezzi della centrale, come di tutti gli altri produttori, arrotonderanno verso l'alto? Facendo tra l'altro felice Mario Draghi, che ogni giorno prega santa inflazione perché faccia il miracolo di far ripartire il treno dell'economia. Siamo rimasti in pochi e in via di estinzione a convertire l'euro in lire. Piccolo ripasso. Un euro vale 1936,27 lire. Perciò il vituperato centesimo vale lire 19,3627 e i due centesimi lire 38,7254. Vi sembra una trascurabile inezia? A me no. Ogni tanti anni compare all'orizzonte uno tsunami che travolge i piccoli tagli della lira. Ne ricordo due. Ad un certo punto i fabbricanti di bottoni scoprirono che era più conveniente usare le monetine della zecca piuttosto che realizzare i tondini di metallo per rivestirli di stoffa, e così i piccoli tagli sparirono. Molti anni dopo arrivò la stagione dei mini assegni per supplire alla mancanza di contante. Dapprima erano autentici, emessi dalle banche, poi irruppero quelli falsi, gli uni e gli altri diventati oggetto di accanito collezionismo, battuti alle aste ancora oggi. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Bruno Gambarotta in difesa del centesimo che sparirà dalla Stampa del 16 maggio. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Letture di Radio 24. Vengo qui per fare qualche soldo, tanto mi rimettono in libertà. In Italia per rubare, insomma, perché tanto le nostre leggi consentono una sostanziale impunità. Lo rivela a Il Tempo un cecoslovacco più volte arrestato a causa degli scippi che effettuava sulla linea 64, un bus della capitale. L'uomo arrotonda il suo stipendio da tassista a Praga, che lamentava essere poco remunerativo, saccheggiando portafogli nella città eterna. Il 35enne è stato fermato a maggio, agosto e settembre scorsi, dopo essere stato scoperto in flagranza di reato, ma è sempre stato libero di tornare a casa, in attesa della convalida della carcerazione, che puntualmente non avveniva. Il 15 maggio è arrivata la prima condanna per un colpo commesso alla fine di agosto 2016 alla stazione di Piazza Venezia. La tecnica era sempre la stessa. Saliva sul 64 fingendo di trasportare diversi pacchetti per non dare nell'occhio, si avvicinava alla vittima e alla prima sterzata improvvisa del mezzo agiva. Il cecoslovacco, insomma, ora dovrà pagare 150.000 euro e scontare teorici 7 anni. La prima condanna dopo anni di furti è arrivata, ma la sua storia dimostra in maniera lampante che le nostre leggi non funzionano. «Vengo da voi perché tanto mi rimettono in libertà», afferma Beffardo. E così, almeno una volta ogni 30 giorni, viene a Roma soltanto per borseggiare. Su quella maledetta 64 aspetta una frenata brusca, un sobbalzo o uno spintone per sgraffignare i portafogli. Un metodo collaudato e impunito per anni. Lo faceva per aiutare la moglie e i figli, dice. E ovviamente lo faceva in Italia. E quello che avete ascoltato era l'articolo «Roma, il furfante di Praga. Vengo in Italia per rubare una volta al mese, tanto mi liberate subito». Dal Libero del 16 maggio. Istituita nel 2009 per fornire indicazioni utili nel caso di delitti impuniti, la banca dati del DNA è entrata in funzione solo a gennaio di quest'anno. Ma non è ancora pienamente a regime, perché il laboratorio è ancora in attesa di essere accreditato. Nonostante il regolamento attuativo risalga al giugno 2016, il database ha iniziato a funzionare solo dal gennaio scorso, ma non del tutto. Questo perché al momento i DNA ignoti, finora circa 500 rinvenuti sulle scene del crimine inseriti nel sistema dalla polizia giudiziaria, non possono essere incrociati con quelli conosciuti appartenenti a persone in carcere o ai domiciliari per una serie precisa di reati. Il laboratorio centrale, cioè la struttura del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che deve elaborare e inviare questi dati, non è ancora operativo perché è in attesa di accreditamento. Tutte le tracce, infatti, devono essere analizzate in laboratori certificati, in modo che le fasi che portano all'accertamento del DNA non siano messe in discussione durante l'eventuale processo. L'Italia è tra gli ultimi paesi europei a dotarsi di questo archivio che nel Regno Unito esiste dal 1995 e fornisce il 63,3% di probabilità di pescare, tra i profili genetici noti, il responsabile di un delitto impunito. A regime il database verrà usato per indagare su omicidi e crimini violenti, sia per perseguire e anche prevenire reati seriali come furti o rapine. Ma non solo, aiuterà anche a ritrovare le persone scomparse, sempre nel rispetto della privacy. Avete ascoltato l'articolo di Anna Dichiarante, la banca dati del DNA, gli sportelli sono ancora chiusi, dal venerdì di Repubblica del 12 maggio. Il fine settimana, così come lo conosciamo, è un'invenzione relativamente recente, che si è consolidata soltanto intorno alla metà del Novecento. Eppure sta già scomparendo, in un'era in cui i turni di lavoro si fanno sempre più fluidi. È una parola bizzarra, nota la giornalista Katrina Onstad nel suo nuovo libro, The Weekend Effect. C'è voluto un secolo per conquistare il weekend, sono bastate un paio di decadi per disfarlo. Un capitolo del libro è dedicato proprio all'introduzione del weekend negli Stati Uniti da parte di Henry Ford, cui è seguita la diffusione in Europa. Un tempo, infatti, nei paesi occidentali, la settimana lavorativa era composta da 6 giorni e non si lavorava soltanto la domenica per questioni religiose. L'idea di accorciare la settimana lavorativa, scrive la Onstad, comincia ad avanzare durante i moti sindacali della rivoluzione industriale, però fu soltanto alla fine degli anni 20 che le prime grandi industrie cominciarono a introdurre questo modello. Henry Ford, un fervente antisindacalista, introdusse la settimana di 5 giorni nel 1926 perché credeva che avrebbe incentivato i consumi. La gente che ha più tempo libero ha anche bisogno di più vestiti, mangia una varietà più ampia di cibo e richiede più trasporti. Entro il 1955 il sabato libero era diventato standard nel Regno Unito e entro il 1970 nel resto d'Europa. Dopo centinaia di anni di dibattiti, scontri e dogmi, il weekend dovrebbe essere dato per assodato, scrive Lonstad. Salvo poi notare che non è esattamente quello che è successo. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 29% degli americani e il 25% dei britannici lavora nel weekend, percentuale che scende di poco nell'Europa continentale. E quello che avete ascoltato era l'articolo «Ci è voluto un secolo per creare il weekend e un decennio per distruggerlo», pubblicato il 9 maggio sulla rivista Studio. In certe parti del mondo fallire non è un fallimento. Non riuscire a realizzare ciò che ci si era proposti o interrompere l'attività che si stava portando avanti per mancanza di mezzi non porta con sé uno stigma. Al contrario, è proprio l'errore, il fallimento, la chiave vera per il successo, secondo l'antico adagio per cui sbagliando si impara. E soprattutto, se si sbaglia, vuol dire che si è rischiato. Questo avviene nella Silicon Valley, dove il non riuscire e accantonare progetti sono medaglie sul petto. Addirittura Google sceglie di premiare con soldi i suoi dipendenti che, alle prese con un'idea strampalata, decidono di rinunciare. È un modo per aiutarli a vincere l'attaccamento alle proprie convinzioni, anche sbagliate, e a far perdere meno tempo all'azienda inseguendo visioni senza fondamento. In Svezia, invece, fanno di più. Un museo apre a giugno a Helsingborg e metterà in mostra i relitti di invenzioni e innovazioni che non hanno preso piede. Dovevano fare il botto e invece sono cadute nel dimenticatoio. Il visitatore potrà vedere i Google Glass, una bottiglia di profumo Harley Davidson, una Coca-Cola Black al sapore di caffè, le lasagne della Colgate, le penne Bic per ragazze, una macchinina per twittare che però non twittava. In totale, il museo ospita 80 oggetti. Non tutti possono essere considerati simbolo di fallimento. Ad esempio, il povero Sony Betamax, una tecnologia sconfitta e soppiantata da altre, ma che ha avuto la forza di durare per 40 anni. Non proprio un flop. E lo stesso discorso vale per la fotocamera digitale della Kodak, creata nel 1975 e resistita fino alla fine del secolo scorso. Questo era l'articolo di Link Pop. In Svezia apre il museo dei fallimenti per imparare dagli errori altrui, pubblicato l'8 maggio sul sito L'Inchiesta.